benvenuti a tutte e a tutti alla decima puntata di Eclettismi spaziali subtropicali, subtropicali. Decima puntata di Eclettismi, una puntata oggi purtroppo un po' di difficoltà a fare a registrare questa puntata, mi sento un po' strano, mi sono svegliato con dei ricordi, forse ho fatto un sogno, un brutto sogno, non so bene, mi sono svegliato con una bruciatura sul collo, dei segni sul corpo, una sensazione di calore, di stupore, di quiete e angoscia. Avevo preparato una puntata su tutt'altro argomento, sulle chat gay, ma devo condividere con voi questa esperienza. Non riesco a costruire la puntata e mi sento strano, un calore dietro, un calore dentro. Ma ce lo hai chiesto tu. Io pensavo che era un po' troppo, ma tu dicevi ancora, ancora. Mi Voi esseri umani siete noi. Siamo venuti sul pianeta Terra all'incirca 27 milioni di anni fa. La vita esisteva in una forma molto rozza e elementare. Poi noi abbiamo deciso che volevamo provare a usare le forme viventi per crearne una più adatta ai nostri bisogni, e cioè di recuperare tutto l'oro che la Terra riusciva a produrre. Sai, non l'oro quello che usate per comprarvi Rolex o per fare i fighi o per sposarvi. No, a noi interessava l'oro colloidale, caro Meno, quello che per la vostra Bibbia è la fonte dell'eterna giovinezza. Sai, noi a un certo punto abbiamo dovuto scegliere se continuare ad avere rapporti con voi o ad avere rapporti soltanto con alcuni di voi. Tu ci hai chiamato! Tu hai cercato di capire chi eravamo! E adesso io ti posso raccontare tutto quello che vuoi sapere, Meno. Il tuo piccolo sacrificio di stanotte forse vale la pena. Dici cosa vuoi sapere. Una domanda mi viene. Chi c'era prima di voi? Meno, caro. Il tempo è un'altra illusione che abbiamo usato per fare in modo che voi non poteste entrare a conoscenza. Te la ricordi la storiella dell'albero della mela? Te la ricordi la storia dell'albero della conoscenza? Beh, praticamente, se voi riusciste a comprendere veramente come funziona il tempo all'interno del meccanismo di tutto l'universo, il vostro povero piccolo cervelletto si potrebbe... Prima di noi c'eravamo noi, dopo di noi ci volevate essere voi, piccolini. Meno, voi siete i nostri figli, e come nostri figli ci somigliate tanto. Però come dei piccoli, piccoli bambini. Avete bisogno che noi vi nutriamo, che nutriamo quella piccola scintilla. Questo è il tempo. Questo c'eravamo prima di noi. C'eravamo prima di noi. Questo c'eravamo prima di noi. Ricorda me. Ma allora LL, perché fate in modo che ci sia la guerra, la violenza e l'infelicità, il dolore e la malattia? Perché? Perché? Alieno, perché? Alcuni di noi stanno facendo un gran casino sul pianeta Terra. Hanno sempre voglia di succhiarselo tutto, come dicevi ieri sera, ma non te lo ricordi. E lei non ti voleva fare male, e tu però insistevi. Cosa strana, abbiamo una telefonata in diretta. I telefoni sono spenti, ma è arrivata la telefonata, si accendono delle luci. Bah. Ciao, chi sei? Come ti chiami? Pronto? Salve, sono Carmen. Volevo chiedere, volevo fare una domanda. Questi alieni, alla fin fine, usano una precauzione quando fanno queste cose oppure no? Perché sennò saremmo pieni di alieni piccoli, piccoli alieni. Grazie. Ciao piccola Irene. Allora, questa domanda che hai fatto mi interessa molto, ma soprattutto interesserà a voi. Sai, voi, come c'è scritto, avete lasciato il giardino dell'Eden proprio quando avete cominciato a riprodurvi. Ma siamo stati noi a fare sì che Eva si potesse riprodurre per la prima volta. Alcuni di noi non volevano, ma noi pensavamo che sarebbe stata una figata. Però da quel giorno avete lasciato il giardino. Quindi la risposta è no, non usiamo nessuna precauzione. Viva, viva la riproduzione. Pronto? Salve, sono sempre quella di prima. Le volevo chiedere una cosa. Le volevo una curiosità, proprio una curiosità. Gli alieni vedono a colori o in bianco e nero come gli animali? Grazie della sua disponibilità, grazie. Siete sempre meravigliosamente fantastici. Ma che belle domande che fa la piccola Irene. Allora, così come ti avevo detto per il tempo, voi piccoli esseri umani non riuscite a vedere bene. Infatti, a un certo punto vi mettete pure gli occhiali. Che succede? Noi vediamo contemporaneamente tutte e 11 le dimensioni che fanno parte di questo sistema. Noi non vediamo soltanto i colori, noi vediamo le luci dei colori e le ombre nel buio. Cervelletto, mi viene? Ecco, noi praticamente vediamo a occhi chiusi. Allora, come dite a Roma? Cerca naffanculo a tastoni. Ci vedi? Vedi a naffanculo. Noi vediamo, piccola piccola Irene, noi vediamo con la ghiandola pineale. Ok? Hai mai sentito parlare di terzo occhio? Ibeda, Irene, c'è scritto. Si veda, c'è scritto di noi. Eravamo blu, tipo Shiva, già presente? Con i superpoteri eravamo noi. Tipo già presente Zeus, eravamo sempre noi. Tipo già presente Horus, Aridanget, eravamo noi. Tipo già presente il serpente piumato, dai, eravamo noi. Tipo già presente Watatanka. Noi cambiavamo forma, piccola Irene. Voi vedevate noi sotto forme diverse, piccola Irene. Voi vedete quello che noi vogliamo che voi vedete. Bianco e nero. Cervelletto, piccola Irene. Destinata a rimanere in bilico tra il rigore scientifico e la scarsa credibilità delle superstizioni, l'esistenza degli individui extraterrestri torna periodicamente ad occupare le colonne della nostra carta stampata. Per saperne di più lasciamo la parola alla signorina Antonietta Di Muro, animatrice del Centro Romano di Fratellanza Cosmica. Avevo 15 anni, mi trovavo in Sardegna nella mia cameretta e studiavo. A un certo momento, improvvisamente, davanti a me apparvero due creature in colori, come se fossero fatte di luce. E mi sembrarono un uomo e una donna, avevano una tuta argentea, metallizzata, fasciava strettamente i loro corpi, erano molto alti, molto belli, armoniosi nei movimenti. Avevano i capelli lunghi sciolti sulle spalle, color sabbia, e mi dissero una sola frase: siamo della quarta dimensione. Dopodiché scomparvero. Ma in quel momento lei era in trance? No, no, assolutamente. Noi non cadiamo, né io né gli altri che ricevono messaggi o disegni, cadiamo in stato di trance. È come se un pensiero non appartenente alla nostra mente si intromettesse nella nostra mente e ci facesse dire cose che noi non pensiamo. Per esempio, può darsi benissimo che durante questa intervista io stessa sia stata guidata da loro. E quali altri mezzi usano per contattarvi? Dunque, non con tutti questi extraterrestri si mettono in contatto mediante messaggi, bensì con molte persone si mettono in contatto addirittura facendo riprodurre le loro stesse immagini mediante una ricezione telepatica figurata. Queste creature sono come noi, fisicamente come noi, solo che alcuni di essi hanno come componente principale del loro organismo il silicio anziché il carbonio come noi. Ecco, di qui alcune caratteristiche fondamentali leggermente differenti dalle nostre, quali appunto il colorito verde anziché il nostro roseo, gli occhi molto allungati sulle tempie, ma per tutto il resto simile a noi. Ma a parte il silicio e il colorito verde, è proprio sicura che siano uguali a noi? Certo, anche tra di loro ci sono uomini e donne e la riproduzione avviene nello stesso modo come da noi sulla Terra. Anzi, si sono verificati, posso dire, dei casi in cui uomini terrestri hanno fecondato donne extraterrestri o viceversa, dando origine così a delle creature con una coscienza superiore a quella dell'uomo comune, dell'uomo normale qui sulla Terra. Parla molto di un certo signor Siracusa, chi è esattamente? Questo signor Siracusa è il primo operatore qui sulla Terra ed è un personaggio ormai noto attraverso la stampa, la televisione, eccetera, e ha avuto anche modo, oltre che di contattarli fisicamente, ha avuto modo di viaggiare anche a bordo di dischi volanti. Anzi, durante uno dei suoi voli si è incontrato con un certo Galli di Bologna. Forse le argomentazioni della signorina Di Muro non sono molto convincenti, ma perché dovrebbero esserlo? Appuntamento alle pendici dell'Etna con Eugenio Siracusa, che afferma di parlare con gli abitanti del cosmo. Qui, a Monte Manfre, a circa 1300 metri sul livello del mare, ho avuto il primo incontro, l'anno 1962, con creature extraterrestri. Guardi, io compivo 33 anni e mi trovavo lungo la passeggiata del Piazza dei Martiri, vicino al mare. Aspettavo l'autobus 5 che mi conducesse in ufficio, se non che erano le 5 di mattina, vidi sopra di me a circa 1000 metri di altezza un alone di luce fluttuante in cui in mezzo a questa luce stava una enorme trottola. Da questa trottola uscì una luce fluttuante di colore giallo e verde smeraldo che veniva verso di me come un chiodo rovesciato. Space Balls. Io volevo svincolarmi perché veramente sentì un terrore, una paura tremenda. Se non che rimasi impalato, come inchiodato in questa ringhiera senza potermi muovere e senza che qualcuno si avvicinasse, perché non c'era nessuno in quell'ora, un'ora insolita di mattina di marzo. Questa luce mi compenetrò, mi investì. Appena mi investì mi sentì una quiete, una tranquillità come non ho mai sentito. Poi ad un tratto questa luce fluttuante si ritirò e si rimpicciolì come quando nel televisore si nota che la figura svanisce e rimane quel punto di luce. E dopo, all'indomani, io sentivo un formicolio qui dietro le orecchie che si localizzava nella pineale. Qualche cosa parlava dentro di me e mi spronava a fare, a scrivere, a disegnare, a fare delle cose che io non ero avvezzo a fare. Sia pur certo, è pura realtà, esperienza da me personalmente vissuta. E per darle una dimostrazione più chiara, le mostro l'immagine di una creatura cosmica. È un farmaco psicotropico, se tu lo assumi hai uno stato di percezione, di coscienza differenziato da quello normale. In questo stato di percezione, di coscienza differenziato, tu hai la possibilità di vedere un mondo diverso, come per esempio il mondo alieno, vedi gli alieni, vedi gli stessi alieni che in qualche modo sono stati descritti dalla casistica alienologica che noi conosciamo bene. Acquisisci facoltà di natura paranormale, perché puoi vedere nel futuro, nel passato, non c'è più tempo né spazio, puoi vedere in altri posti, puoi fare il remote viewer, puoi guarirti da malattie. Allora, in questo contesto, che cosa fa la dimetiltriptamina? Si capisce che la dimetiltriptamina serve per dicotomizzare il cervello, cioè fa le stesse cose che fa un'ipnosi regressiva. Sostanzialmente il lobo destro e il lobo sinistro, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro si separano e in quell'istante la parte animica viene fuori. La molecola dello spirito, dice infatti Strassman, ma oltre a essere la molecola dello spirito è probabilmente anche la molecola dell'anima. Una molecola che da un punto di vista chimico, in qualche modo, permette ai due lobi di destro e sinistro di separarsi momentaneamente, provocando un processo di schizofrenia, che secondo me è estremamente importante per acquisire consapevolezza di sé, e alla fine, lavorando solamente con la parte animica o con la parte spirituale, ecco che l'essere umano comprende come è fatto. La prima volta all'extraterrestre era andato alla playa a pescare un'anticchia di pesce per fare una frittura con mia moglie e i miei figli. Volevo fare un pezzetto come Dio comanda. Buttavo l'amo e ad un certo punto dalle onde spuntò sto essere immondo, un essere bruttissimo con due teste, quattro braccia, quattro gambe, quattro gambe bruttissime, tutto nevolo, tutto strazzato, che parlava io incominciai a gridare polizia, polizia, per fortuna là vicino c'era la polizia, venne e ci disse: che cosiete, che volete, che cercate? Che te continuano a parlare ciucciu qua, ciucciu qua, ciucciu là, ma che ne saccio, che volevano? Io ero scantato. Allora i poliziotti pigliarono uno da un braccio e l'avuto dall'avuto braccio interaro. Minchia, si separarono, diventarono due extraterrestri. Una cosa impressionante. Mi scanto ancora adesso. E praticamente in fondo c'era l'astronave che pareva un balcone. Chino, disse gli extraterrestri, tutti divori, tutti stazzati. C'erano extraterrestri che parevano femmine, altri extraterrestri che parevano picciritti, e i puntarono tutti a riva. E io mi ammucciavo, mi scantavo, e ci dicevano: chi siete, non venite, ciu ciu ciu. E poi li buittaro tutti in un posto che si chiama Sprar, non saccio, ma secondo me li hanno vivisezionati. E poi, come paese,

qualsiasi altro nome vogliate dar loro, esistono. Popolato da 400.000 specie umanoidi, di cui molte sono arrivate. Per esempio, una è arrivata da una zona del identificabile nel cielo, che è un ammasso stellare che si trova all'altezza della spalla destra della costellazione di Orione. Ci sono dei testi tipo il Vimanika Shastra, dove sono descritti anche i tessuti con cui devono essere fatti gli abiti di quelli che volano. Ci sono scritte anche le diete, così come ci sono le diete per gli astronauti attuali. Avete presente chi ha in mente le rappresentazioni degli Anunna o Anunnaki sumero accadici, che sono il corrispettivo sumero accadico degli Elohim biblici? Hanno sempre una borsa uguale. Sono dei sistemi di filtraggio. Uno si dice, ma cos'era quella borsetta? Guardiamo i nostri astronauti, tutti vanno con la borsetta in mano. Cioè, uno mette vicino, mettete vicino le immagini degli Anunna Anunnaki e le immagini degli astronauti americani, russi e cinesi, e dite, ma dal momento che questi ci dicono che quelli erano i figli delle stelle che arrivavano da... Anche qui. È vero o non è vero? Beh, io non ho prove, in modo più assoluto, non ho nessuna. Però faccio finta che sia vero. Perché faccio finta che sia vero? Perché ce lo raccontano tutti. Cioè, dei figli delle stelle ci parlano tutti. Dall'India agli indiani Hopi, dal Giappone agli indio sudamericani. Cioè, dei figli delle stelle parlano tutti. Il Vaticano ha investito 30 milioni di dollari negli anni 70 per costruire un osservatorio astronomico sul Mount Graham in Arizona, tra l'altro riserva indiana dove non si può costruire niente, neanche mettere un mattone uno sopra l'altro, sul Mount Graham, che è il monte sul quale gli indiani dicevano agli incontri con quelli lì. E quell'osservatorio lì è dedicato, scusate prima Alberto, alla esobiologia, cioè allo studio della possibile vita extraterrestre. Ma cosa interessa al Vaticano occuparsi della fede? Cioè, non ha abbastanza anime? E sapete da chi è seguito? Tutto dai gesuiti. Guardate che non è segreto, eh? Se voi digitate in internet vaticanobservatory.com trovate l'elenco di tutti i gesuiti che ci lavorano dentro. Non è mica segreto. Poi ne hanno un altro in Alaska, dedicato allo studio dei corpi celesti sconosciuti. Ma cosa frega il Vaticano di occuparsi dei corpi celesti, visto che ha ancora alcuni miliardi di anime da prendere? Hanno anche inviato una sonda che si chiama Lucifer, portatore di luce. Esattamente. sono gli esseri umani, quindi basta fare finta di essere animali. Ingegnoso! Spogliamoci tutti e crogioliamoci nella melma, animaliamoci! Drums between the bells. L'amfetamina è una molecola che ha un nucleo indolico, cioè è il peyote, è il mescalo, è l'acido lisergico, è la serotonina, è la melatonina. Sono tutte molecole molto interessanti perché sembra che facciano qualcosa a livello di ghiandola pineale, il famoso terzo occhio del mondo vedico e induista. Ma la causa e l'effetto, quali sono? È la dimetiltrittamina che mi fa entrare in un mondo particolare per cui il mio stato di coscienza si allarga e io vedo l'alieno? Oppure è l'alieno che quando viene da me agisce sulla mia ghiandola pineale e mi aumenta il contenuto di dimetiltrittamina? Non è un fenomeno che tu scegli, vedere l'alieno o no prendendo una sostanza psicotropica, ma, perché così sarebbe facile dire, io se voglio entro in contatto con il mondo alieno. Purtroppo noi sappiamo che non è così, che l'alieno viene, ti prende e ti fa quello che vuole. show me. Siamo giunti alla fine di questa puntata, grazie a tutte le aliene e gli alieni in ascolto. Un saluto a Giampi, l'alieno ribelle, e a LL che ci ha spiegato i segreti dell'universo. Eclettismi spaziali sono tropicali.